tue mani su quel pianoforte. Non hanno un'anima, ma risuonano le note delle tue botte. Suono di quello strumento non copre nel frattempo il suo pianto. Oggi implori amore e chiedi perdono per quello che tu hai commesso. Un perdurare di violenza come una danza lenta implori amore, mentre su quel corpo potresti sentire del sangue ancora l'odore. Ma tu non ci pensi a quel dolore. Vittime tra le mura di casa scrivono i giornali, e clamore in TV, in qualche trasmissione. Poi tutto quanto diventa normale, tutti sensibili. Quando c'è da sfilare, tante chiacchiere per sentito dire, ma la violenza inizia a preoccupare. Implori amore, mentre su quel corpo del sangue c'è ancora l'odore. Ma tu non ci pensi a quel dolore, violenza fisica e mentale. Fortuna che oggi qualcuno inizia a parlare.